Magazine 24, la rassegna dei settimanali, a cura di Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno e buona domenica, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con i settimanali e i mensili non solo italiani in edicola. Questa mattina voglio proporvi una notazione davvero curiosa e molto interessante, che è di Pier Giorgio Odifreddi e che ho tratto da Vanity Fair di questa settimana. Odifreddi è un matematico, però è anche uno scrittore, un divulgatore scientifico, tra l'altro è in uscita, ricorda Vanity Fair, a novembre il suo ultimo libro. Quello che fa notare Odifreddi è che ci sono due scoperte scientifiche parecchio importanti che sono curiosamente legate alle mele, o meglio alla caduta di una mela. Quindi la mela non solo, come vuole il proverbio, aiuta a tenere lontano il medico, ma fa in qualche modo anche del bene agli scienziati. Così racconta appunto Odifreddi. Nel 1917 Albert Einstein ebbe uno di quei pensieri geniali che l'hanno fatto passare alla storia come il più grande scienziato del Novecento. Vide cadere una mela. Naturalmente Einstein si ricordò che un altro grande scienziato, Isaac Newton, aveva messo a frutto l'evento, intuendo appunto l'esistenza dalla caduta della mela, l'esistenza della forza di gravità, di gravitazione universale, cioè aveva capito che la Terra attrae a sé la mela facendola cadere nello stesso modo in cui attrae la Luna e la mantiene così in orbita. Ovviamente Einstein non poteva trarre la stessa conclusione perché Newton c'era già arrivato prima di lui, ma ne trasse un'altra non meno sorprendente. A dimostrazione del fatto, scrive Odifreddi, che le mele sono un ottimo soggetto per le storie, cosa che d'altronde già sapevano coloro che hanno raccontato quelle di Eva, Paride, Biancaneve, Guglielmo Tell, ma anche Alan Turing, i Beatles e poi Steve Jobs, se vogliamo restare sempre in ambito di mele. La storia di Einstein è questa: se si tira una mela in verticale, questa salirà fino a un certo punto, poi tornerà a terra come un ascensore. Se però al punto massimo della sua traiettoria la mela tocca un'altra mela che sta attaccata al ramo e così la induce a staccarsi, queste due mele cadranno parallelamente in coppia alla stessa velocità. Fu un'intuizione che rimase lì in realtà, cioè da questa constatazione di Einstein nel 1917 non derivò granché. Einstein capì che questa stessa cosa poteva accadere appunto tra i fotoni e gli elettroni, cioè facendo passare un fotone vicino a un elettrone si stimolava appunto il passaggio a un'orbita di minore energia e quindi si produceva così un fotone che era identico. E questa è una parte scientifica che appunto spiega Odifreddi produceva un fenomeno chiamato emissione stimolata di un fotone. Ripeto, rimase una curiosità. Nel 1951 ci fu un altro giovane, si chiamava Charles Stones, il quale capì che in determinate condizioni questo fenomeno che aveva scoperto Einstein guardando le mele cadere può avvenire a catena, cioè si può provocare quante volte si vuole. Bene, ve la faccio molto rapida, vi rimando poi a Vanity Fair se volete tutti i dettagli anche più tecnici della storia. Da questa constatazione di Einstein unita alla constatazione di Stones si arrivò a mettere a punto il laser. Il laser che adesso è uno strumento, come sappiamo, usatissimo, utilizzatissimo. Quindi, oltre alla forza di gravità, le mele stanno anche all'origine del laser. Visto che abbiamo preso questo taglio un po' scientifico, un po' di divulgazione, grazie alle mele appunto, vi voglio parlare di un magazine che non è in edicola, che non trovate in edicola, ma è un magazine virtuale, quindi assolutamente legato anche alle novità tecnologiche, ma è legato anche alle novità scientifiche. Come sapete, da qualche giorno, ormai da una decina di giorni, con il Sole 24 Ore, è stato proposto su iPad La Vita Nova. La Vita Nova è il primo magazine digitale, quindi è un po' difficile suggerirvi l'acquisto in edicola, di La Vita Nova, però se avete un iPad potete accedere appunto all'Apple Store, così si chiama il posto dove si va a comprare le riviste, l'edicola per così dire di Apple per iPad, e da lì potete appunto scaricare, potete avere La Vita Nova. La Vita Nova è gratuita, dall'App Store, appunto dal negozio online di Apple, trovate l'applicazione La Vita Nuova, ve lo scaricate e avete una rivista, avete un magazine. Potrebbe essere la frontiera, magari in un futuro non così lontano questa trasmissione si farà tutta con le edicole virtuali, le edicole digitali. Cosa c'è su La Vita Nuova? Ovviamente tantissime cose che sono legate soprattutto ai temi affrontati abitualmente da Nova, come sapete il supplemento scientifico che viene dato ogni giovedì con Il Sole 24 Ore. All'interno di questo magazine comunque ci sono storie, novità, idee che sono tutte dedicate alle grandi scoperte scientifiche, quindi dall'elettronica, la biologia, l'energia, la tutela dell'ambiente, internet naturalmente, e soprattutto c'è una modalità di guardare la rivista che è assolutamente diversa, cioè il poter entrare materialmente nei grafici, farli esplodere, ridurli, saltare le pagine o gli argomenti o incrociarli come più vi piace. Tutto questo per chi ha iPad, sappiamo che non sono ancora moltissimi i possessori, ma questo è già il primo magazine digitale pensato proprio per iPad. Lasciamo le questioni più innovative, restiamo in ambito scientifico, ci aiuta Focus di novembre, che si occupa di tarli musicali. Cosa sono i tarli musicali? Beh, come sappiamo benissimo, ci capita di avere in testa il motivetto, appunto il motivetto che piace tanto, si diceva una volta, una musica che ossessivamente non riusciamo a toglierci dal cervello e che magari per una giornata o più giornate continua a suonare. A suonarci nella testa. Si chiamano tarli musicali più propriamente, e come racconta Focus sono anche di estremo interesse, spiega Amelia Beltramini, per gli studiosi naturalmente del cervello, che cercano di capire quali sono i meccanismi che portano un brano a fissarsi in questo modo. Naturalmente sono motivo di studio di grande interesse anche per chi si occupa di musica e per chi vuole magari vendere musica. Sarebbe molto importante, molto utile scoprire quali sono le armonie, le melodie che più possono prendere, più fare presa insomma nella nostra memoria. Leggo appunto da Focus che l'anno scorso un ragazzo di 21 anni si era dovuto addirittura rivolgere agli psichiatri perché era in India. Questa storia avviene in India, ma da 5 anni gli frullava in testa una colonna sonora di un film, erano 3 minuti di musica più o meno, e continuava a risentirsela. Hanno provato anche con dei farmaci, ma non c'era proprio modo di staccargliela dalla memoria. Continuava appunto a pensare, ad avere questo cosiddetto tarlo dell'orecchio. Fortunatamente il suo è un caso estremo, di solito non è necessario ricorrere alla chimica. Spiega Beltramini, in realtà si chiama tarlo dell'orecchio, ma l'orecchio c'entra poco, sono dei parassiti musicali del cervello. Ci fu una rivista che negli anni 80 definì questo fenomeno gli agenti musicali cognitivamente infettivi, in realtà appunto il motivetto, e poi furono rinominati ripetizione di immagini musicali. Il 98,2% delle persone, quindi diciamo praticamente tutti, sa di cosa si tratta. Sono state intervistate per mail migliaia di persone per vedere se ci fossero delle ricorrenze, delle particolarità. Quello che si è così riusciti a capire è che ci sono delle grandi differenze individuali. Per alcuni è piacevole avere appunto una musica che continua a riproporsi, tiene compagnia, per altri è un ritornello fastidioso. Per il 10% della popolazione questo ritornello può diventare una ossessione fastidiosa. Naturalmente risultano più esposti, diciamo non sorprendentemente sarebbero più esposti i più giovani che ascoltano molta musica. C'è una particolare incidenza fra i mancini, ma più in là appunto non ci viene spiegato. Naturalmente è molto interessante capire il legame con l'inconscio. Di solito questi spezzoni che restano nella testa sono molto brevi, durano tra 15 e 30 secondi, e naturalmente spesso le strutture musicali ripetitive, come sono spesso i ritornelli delle canzoni, oppure molto semplici, restano più facilmente in testa. Però gli studiosi hanno visto che funziona molto bene per memorizzare qualcosa anche la eventuale incongruità tra il testo e la musica, o tra il ritmo e la metrica. artistica, cioè qualche variazione appunto ad arte, sarebbe in grado di fissarsi maggiormente. Come si fa però se uno proprio non riesce a sopportare questo tarlo musicale? Beh, è molto difficile, perché cercare attivamente di dimenticarsi un ritornello in realtà non fa altro che aumentare la ripetitività del ritornello stesso. Se volete, su Focus c'è anche la classifica dei 10 tarli musicali più diffusi, però negli Stati Uniti. Sarebbe carino poi trovarla in futuro anche per l'Italia. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando di tarli musicali. Vi avevo segnalato che su Focus trovate anche la classifica dei tarli musicali, cioè dei ritornelli, dei motivetti che ci si ficcano in testa, non riusciamo più a schiodarceli, più diffusi negli Stati Uniti. Invece vi voglio parlare adesso di una cosa italiana che sta sempre su Focus, cioè le paure. La copertina di Focus in realtà è proprio dedicata alla paura che è un'emozione molto importante, perché oltre a consentirci di sopravvivere in molte situazioni, se governata appunto diventa, come sappiamo dalla nostra esperienza, decisamente importante anche per la crescita, anche diciamo per la maturazione di tutti quanti. Ma hanno fatto un lavoro molto bello invitando i lettori di Focus a segnalare le paure locali, quindi ne è uscita una mappa, un po' il federalismo delle paure, più spesso naturalmente le paure riferite ai bambini, per cui apprendiamo che ad esempio in Piemonte c'è una strega che si usa abitualmente per i bambini che si chiama Masca, ha un libro del comando che è pieno di formule, che invece nel Veneto, diciamo nel nord-est, c'è un personaggio che si chiama Mazzarol, è vestito di rosso, ha la barba lunga e vive nei boschi ed è il babau, come si dice un po' in tutta Italia, che si utilizza per i bambini. Nelle aree dell'Italia centrale è diffuso, parlo della Toscana ma anche delle Marche, il gatto mammone, un enorme gatto, e la mamma c'entra poco, il mammona indica il demone della ricchezza, quindi è un gatto avido. E poi invece scendendo ancora più a sud, in Puglia, l'ulauru, che è un folletto dispettoso che si siede sul petto di chi dorme. In Sardegna mamma è su sole, che è una vecchiaccia che rapisce i bimbi rimasti fuori casa nelle ore calde. Qui è evidente anche la volontà di dare un precetto educativo per i bambini. E poi naturalmente l'universalmente noto uomo nero e altri personaggi. Trovate tutta questa mappa e anche gli interessanti approfondimenti appunto sulla paura all'interno del dossier che porta anche la copertina di Focus per questo mese. Visto che stiamo parlando di bambini, c'è un articolo molto interessante sull'Espresso che si occupa proprio di bambini. Piccoli shopper crescono è il titolo di questo articolo, l'articolo di Marina Cavallieri, ed è dedicato proprio agli acquisti per e dei bambini. Faccio questa distinzione perché appunto nell'articolo si spiega come i bambini, dice ad esempio Chiara Mauri, sono tre mercati in uno solo, perché acquistano con denaro proprio, però influenzano anche gli acquisti dei genitori e poi naturalmente sono i clienti che verranno domani. Quindi in questo momento, sempre leggo dall'Espresso, sono il mercato che resiste meglio alla crisi, per motivi anche facilmente intuibili. Le famiglie tendono comunque a spendere per i figli, però ci sono anche altre ragioni psicologiche o culturali o addirittura demografiche. La tendenza a spendere per i bambini è naturalmente un po' istintiva. È provato che una mamma, quando compra un prodotto, ad esempio uno yogurt per sé o per gli adulti, sceglie una marca. Però se compra questo stesso prodotto per i figli, è portata a scegliere una marca più costosa. Naturalmente tende a spendere di più per il figlio, guarda il prezzo più alto, lo cerca proprio. Il mercato riflette questa tendenza a non dire mai no, e quindi il mercato dei giocattoli, ad esempio, nel 2009 è aumentato, pur in un anno non brillante, anzi in alcuni settori decisamente negativo, è aumentato quasi del 3%. e per il 2010 nel primo semestre è stato ugualmente registrato un aumento dell'1,6%, quindi con una tendenza alla crescita costante. Già 8 anni poi, spiega sempre Marina Cavalieri sull'Espresso, negli Stati Uniti si può essere considerati big spender, cioè grandi consumatori attivi, maturi, che sono in grado anche di decretare in modo decisivo, in modo magari imprevedibile, il successo oppure la caduta di un prodotto, capaci di fare il destino di una marca. Gli inglesi hanno anche un'espressione divertente, lo chiamano il fattore assillo, neg factor. Quello è il fattore assillo. Il fattore assillo è quella, appunto, assillo che sono in grado di dare i bambini ai genitori per ottenere l'acquisto di una certa cosa. Allora, dice, da qui nascono poi gli asciugacapelli a forma di coniglio, oppure i lucidalabbra che sanno di caramella, o i telefoni cellulari con rossacchiotti e così via, insomma queste contaminazioni di tutti i generi che siamo un po' abituati a vedere. Non tutto va benissimo, non tutto ha tenuto, soffre un po', scrive sempre l'Espresso, il settore dell'abbigliamento. È un mondo dove tradizionalmente il consumo dei piccoli si scatena, dove tutto è molto chic e molto curato, però nel 2009 le famiglie hanno invece resistito, hanno risparmiato. Non hanno risparmiato invece, non abbiamo risparmiato nel back to school, cioè nel ritorno a scuola, che è sempre un momento di grande esborso economico per chiunque abbia dei figli, naturalmente per dotarli non solo dei libri ma anche di tutti gli accessori e le cose che servono per la scuola. Tutto questo su L'Espresso di questa settimana. Cambiando invece argomento, su Famiglia Cristiana si parla di sprechi alimentari. In realtà di sprechi alimentari si parla già da qualche settimana, perché sono stati diffusi dei dati e anche a livello europeo si sono tenuti degli incontri a livello europeo per capire come poter limitare, come poter intervenire proprio sul fenomeno degli sprechi alimentari. Famiglia Cristiana ne parla con Andrea Segre, che ha scritto un libro. Andrea Segre ha scritto Lezioni di ecostile. Lui è il preside della Facoltà di Agraria di Bologna e presiede anche una società che si occupa proprio di recuperare i beni invenduti a favore, appunto, degli enti caritativi. E Andrea Segre parte con una annotazione curiosa, dice: ma voi avete mai pensato che le parole denaro e donare sono l'una l'anagramma dell'altra? Beh, allora in questa reciprocità tra denaro e donare è racchiusa la filosofia del non spreco, di cui appunto è teorico e pratico lo stesso Segre. Segre ci informa da Famiglia Cristiana che ogni anno in Italia gettiamo 20 milioni di tonnellate di cibo, con costi economici e ambientali naturalmente elevatissimi. Con questa quantità di cibo, che tutti gli anni viene gettata nella sola Italia, si potrebbe sfamare tutta la Spagna per un anno. Quindi la quantità di sprechi che abbiamo, specialmente nella parte alimentare, è imponente. L'obiettivo che ci si intende dare è di ridurre entro il 2025 in modo significativo questo spreco. Il libro, naturalmente, di Segre, di cui parla Paolo Perazzolo su Famiglia Cristiana, dà delle indicazioni. Lo stesso Segre è andato al Parlamento Europeo in questa settimana che si sta chiudendo, a chiedere che lo spreco nella filiera, proprio dalla terra alla tavola del consumatore, si riduca almeno della metà. È un obiettivo possibile, anzi, dice Segre, è scandaloso che anche in tempi di crisi si continui a gettare tanto cibo recuperabile e cibo commestibile. Bisogna, insomma, cominciare a pensare la società post spreco, capendo che ciò che consideriamo un rifiuto può diventare una risorsa. Tra l'altro, per presentare il libro nero dello spreco è stato offerto a Bologna un pranzo a 500 persone solo con cibi cosiddetti di recupero, cioè cibi di cui magari si era deciso di disfarsi e che potevano invece ancora essere utili e preziosi per tanti altri. Per saperne di più, se volete, Paolo Perazzolo su Famiglia Cristiana dà anche qualche indicazione di siti: www.lastminutemarket.com oppure www.nonsprecare.it e ancora www.unannocontrolospreco.org. Un sito lo aggiungo io, non c'entra niente, ma è per salutarvi: www.radio24.it è il sito dove potete avere tutte le informazioni sui nostri programmi. Se volete potete scrivere a questo come agli altri programmi di Radio 24 e trovare naturalmente anche informazioni sulle frequenze e sulle notizie e notizie interessanti sulla nostra radio. Con questo il tempo è concluso, io saluto Fabio Cantadori in regia, grazie ad Anita Panizza, vi do appuntamento a sabato prossimo.